Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di un tema controverso, quella dell'austerità, che secondo molti sarebbe la causa di tutti i mali e anche alla base delle critiche che molti movimenti populisti, ma anche non necessariamente populisti, fanno alle politiche economiche imposte soprattutto dall'Unione Europea. Ma di questo fenomeno dell'austerità si può dare una lettura controcorrente, ed è quella che ci dà Veronica De Romanis, che è un'economista romana di formazione che insegna a Stanford e alla LUIS e che ha scritto il libro L'austerità fa crescere quando il rigore è la soluzione, pubblicato da Marsilio, 158 pagine, 16 euro. È un tema, dicevo, di cui si discute da molti anni ormai. L'austerità sarebbe la causa della crisi, sarebbe la prova di una forma di un nuovo imperialismo tedesco, rappresenterebbe l'attacco allo Stato sociale. La De Romanis dimostra che molto spesso in realtà tutte queste critiche si basano su degli equivoci, se non su vere e proprie falsità. Anche alla luce, lo dimostra, di quanto è successo e sta succedendo in tutta Europa. E di queste ragioni a favore dell'austerità parliamo adesso con l'autrice. Buonasera Veronica De Romanis. Buonasera. Veronica De Romanis, lei scrive nel suo libro l'austerità è stata usata un po' come capro espiatorio, quindi sottolinea la responsabilità politica di questo atteggiamento. Quali sono queste responsabilità? Nel dibattito degli ultimi anni si è usata l'austerità, che addirittura i politici usano il termine inglese austerity per dare l'idea di qualcosa imposto dall'esterno, dall'Europa, dalla Germania in particolare, per dire non dobbiamo ridurre la spesa pubblica serve. Questo probabilmente serve a loro, perché la spesa pubblica, noi sappiamo, può portare consenso politico, ma non è detto che più spesa pubblica significa più crescita, anzi se andiamo a guardare i dati, quello che vediamo è che i paesi che invece hanno fatto in questi anni un uso efficiente delle risorse pubbliche, perché ricordiamoci che sono risorse di tutti noi, dei contribuenti, sono i paesi che crescono. I paesi invece che hanno aumentato la spesa pubblica, soprattutto la spesa pubblica improduttiva, quindi la spesa, quella che viene chiamata la spesa corrente, come ad esempio l'Italia o la Francia, sono oggi fanalini di coda in termini di crescita. Quindi ecco perché dico che ai politici hanno sfruttato un po' questa idea dell'austerità, anche quando poi di austerità non c'è stata proprio. Per esempio in Italia negli ultimi tre anni, come io dicevo prima, di austerità non c'è stata assolutamente traccia, la spesa pubblica non ha fatto altro che aumentare. Invece è stata tagliata la spesa, quella più produttiva, quella per gli investimenti. E infatti lei sottolinea il parallelo tra austerità e responsabilità. Se noi chiamassimo, scrive, l'austerità per ciò che è, cioè la trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche rispetto degli impegni presi in sede internazionale, soprattutto la salvaguardia delle future generazioni, appunto mostreremmo di assumere responsabilità. È così carente la responsabilità all'Italia di oggi? Guarda, in Germania la parola austerità neanche esiste, si parla di risparmio o si parla di responsabilità, come diceva lei prima, responsabilità per le future generazioni, perché più spesa pubblica oggi significa più disavanzo e quindi più debito. Ad esempio in Italia negli ultimi tre anni il debito è passato dal 129% al 133%. Questo debito qualcuno dovrà ripagare e lo ripagheranno i giovani di oggi, che già fanno fatica a trovare un lavoro. Ecco perché io poi associo alla parola austerità non solo quella responsabilità, ma anche un'altra parola, che è solidarietà, cioè una gestione responsabile delle risorse dei contribuenti, che purtroppo sono scarse, permette anche di liberare risorse per i più deboli. Quindi l'austerità, cioè una buona gestione delle finanze pubbliche, permette di tutelare anche i più deboli. Riprendiamo un concetto che ha appena espresso, quello secondo il quale l'austerità non è necessariamente recessiva. Lei ricorda per esempio che anche Mario Draghi ha parlato di un'austerità buona, che ha un impatto espansivo e prevede meno tasse, come scrive lei. E poi ce n'è una cattiva, appunto recessiva, perché aumenta molto le tasse e riduce poco la spesa corrente. In Italia che punto siamo? Ecco, esatto, due miti che vanno sfatati. Uno, che l'austerità è imposta dagli altri. L'austerità è necessaria quando uno per tanto tempo, un paese, ha vissuto al di sopra dei propri mezzi, ha aumentato il proprio debito, a un certo punto gli investitori non sono più disposti a prestarti. E questo è quello per esempio che è successo in Grecia, in Portogallo, in Irlanda, che hanno dovuto chiedere aiuto ai partner europei, anche a noi. Noi per esempio abbiamo pagato 60 miliardi di euro per venire incontro a questi paesi. Poi ci sono altri paesi come l'Italia, come è successo per esempio nel periodo del governo Monti, quando gli investitori ti continuano a prestare ma non si fidano più tanto, e quindi lo spread, cioè il costo del debito pubblico, aumenta addirittura, è arrivato a 500 punti base. A quel punto non c'è altra alternativa, ecco perché l'austerità non è imposta, non c'è altra alternativa a ridurre il proprio debito. Infatti la politica in quel momento, siccome bisognava fare austerità, ha chiamato i tecnici. E questo diciamo che è un po' un'anomalia italiana, perché di solito il lavoro sporco, tra virgolette, lo dovrebbe fare la politica, perché sono loro che sono stati eletti, invece noi abbiamo chiamato i tecnici a ridurre il nostro debito e a calmare i mercati e a ritrovare credibilità sui mercati internazionali. Però è importante in che modo viene fatta l'austerità. Come diceva lei, il presidente della BCE Draghi ha definito l'austerità buona, che è quella che taglia le spese improduttive e cerca di non aumentare le tasse. Poi c'è l'austerità cattiva, che è quella che invece concentra l'aggiustamento fiscale su un incremento delle tasse. E quella, l'austerità cattiva, è quella che ha fatto Monti. Ma perché? Perché quando non si ha un mandato politico forte, come non ha un governo tecnico per definizione, è molto più facile aumentare le tasse, perché lo si fa con un tratto di penna, piuttosto che ridurre le spese, perché lì bisogna andare a negoziare con centri di potere organizzato. Nello stesso periodo in cui, dove in Italia c'era il governo Monti, in Spagna c'era il governo Rajoy, che era stato eletto con un mandato molto forte, e per esempio in Spagna fu fatta un'austerità che io definisco buona, cioè furono tagliate le spese improduttive, furono associate alla riduzione del debito e del disavanzo anche una serie di riforme, e questo è anche molto importante. Oggi la Spagna cresce oltre il 3%, noi siamo fermi intorno all'1%. E invece cosa ci insegna il caso della Grecia, al quale lei dedica molte pagine? Beh, la Grecia è un esempio di quello che io chiamo appunto l'austerità cattiva. Ricordiamoci che quando Tsipras è stato eletto nel gennaio 2015, il paese piano piano aveva ripreso a crescere, la crescita era intorno allo 0,4%, quindi una ripresa moderata dopo 6 anni di recessione, e Samaras era riuscita a collocare sul mercato 4 miliardi di debito pubblico, quindi questo significa che i mercati cominciavano piano piano a fidarsi di questo paese che per anni aveva vissuto al di sopra dei propri mezzi. Viene eletto Tsipras con un programma molto chiaro: basta con l'austerity, stop all'austerity, interrompe i negoziati. Però cosa succede? Che lui si trova seduto al tavolo dei negoziati, lui contro 18, cioè non è lui contro la Germania, ma è lui contro altri 18 partner che non sono più tanto disposti a prestare a un paese che chiede ulteriori soldi dopo ben 2 programmi di salvataggio. Ricordiamoci che oggi la Grecia ha ricevuto da tutti noi europei, 300 miliardi di euro. Il punto è che l'austerità, non solo, come dicevo prima, non è imposta, ma viene decisa dai governi nazionali, cioè Tsipras che ha deciso come implementare l'austerità. Per esempio Tsipras ha deciso di non aumentare le tasse agli armatori, ha deciso di non tagliare la spesa militare, ha deciso di non tagliare la spesa per la difesa, ha invece deciso, e perché ha bisogno dell'approvazione del Parlamento, la spesa pubblica, la spesa per le scuole. Ecco, se oggi la Grecia si trova in una situazione drammatica, beh, la responsabilità è del governo nazionale. E infatti lei dedica un capitolo, intitola un capitolo: contro l'austerità si vincono le elezioni ma non si governa. Beh, non si governa nel senso che Tsipras ha bisogno, siccome il paese non sta crescendo, anche perché lui ha creato una situazione di 6-7 mesi di stallo in cui ha bloccato tutti i negoziati e quindi lì il paese è ripiombato in recessione, lui chiede soldi in prestito a tutti noi, ripetiamo, agli italiani, ai francesi, ai tedeschi, eccetera. Ma è chiaro che tutti noi quando prestiamo dei soldi non stiamo dando un assegno in bianco, chiediamo degli impegni in cambio. E quali sono questi impegni? L'impegno a riportare il paese in una situazione di poter restituire il proprio prestito. Ecco perché questa è stata chiamata austerità, ma altrimenti sarebbe assistenzialismo. Però, come dicevo prima, il modo in cui viene implementata l'austerità è una decisione nazionale, cioè se Tsipras non vuole aumentare le tasse agli armatori, cioè la parte più ricca della società greca, e invece impone i sacrifici alla classe medio-bassa, questa è una scelta di Tsipras, non è una scelta dei creditori. Qual è secondo lei il nesso che si può costruire o che si può smontare tra austerità e populismo? Ecco, questa è un'altra stereotipo, mi direbbe da utilizzare la parola fake news, che ora si usa molto, che l'austerità crea populismo. Beh, lo dimostrano i fatti che non è vero. Prendiamo per esempio la Francia. La Francia è il paese in assoluto che ha la spesa pubblica in rapporto al PIL più elevato dell'area dell'euro, siamo intorno al 56%, eppure la Marine Le Pen ha sempre aumentato il proprio consenso, tanto da arrivare al ballottaggio con Emmanuel Macron. Quando Emmanuel Macron nel ballottaggio ha detto molto chiaramente alla Le Pen: guardi che il deficit non è una cosa buona, noi dobbiamo ridurlo, perché ricordiamoci che la Francia non rispetta le regole europee da oltre 9 anni e ha un disavanzo che è ben superiore al famoso 3%, e le ha anche detto: io voglio fare un programma di tagli alla spesa pubblica di circa 60 miliardi nel prossimo quinquennio. Beh, i francesi gli hanno creduto. Quindi in qualche modo, quando si fa un programma di austerità, che di nuovo vuol dire non solo tagliare ma anche redistribuire la spesa pubblica, cioè quello che ha detto Macron è: io taglierò da una parte ma alcuni risparmi li utilizzerò per investimenti, per tecnologia, per le scuole, per la sanità, altri invece li utilizzerò per abbassare le tasse. Allora lì le persone ti credono, perché vedono che c'è un programma credibile di lungo periodo, e a quel punto il populismo non ha più spazio. C'è un altro punto: l'austerità circoscrive il populismo, perché una buona gestione delle risorse pubbliche permette di rendere il bilancio dello Stato più trasparente, e lì in qualche modo si depotenzia il tipico messaggio dei populismi. Se pensiamo all'Italia, i 5 Stelle hanno sempre fatto campagna contro la mancanza di trasparenza, contro gli sprechi, contro gli eccessi, contro le inefficienze. Beh, una buona gestione delle risorse dei cittadini sarebbe un modo molto semplice per depotenziare questo messaggio. Ne faccio un esempio: le famose clausole di salvaguardia che continuiamo a mettere nel nostro bilancio è un modo per nascondere un debito di domani. Cioè, io finanzio oggi una spesa dove non c'è copertura, minaccio un incremento dell'IVA e poi però io la disinnesco l'anno dopo con un incremento del debito. Questo rende tutto poco chiaro e soprattutto aumenta il debito che, come abbiamo detto noi prima, verrà pagato dalle giovani generazioni. Ecco, cominciamo a fare una gestione delle risorse pubbliche più trasparente, più semplice, e vedremo come anche chi fa degli slogan populisti verrà ridimensionato. Grazie a Veronica De Romanis, autrice Grazie dell'austerità fa crescere. Buona serata. Buonasera. E di un celebre economista che insegna quest'ultimo ad Harvard, Kenneth Rogoff, vi segnalo La fine dei soldi, una proposta per limitare i danni del denaro contante. Questo è pubblicato dal Saggiatore, 334 pagine, 23 euro, tradotto da Fabio Galimberti, Marco Cupellaro e Adene Oliveri. La tesi del titolo è secca: basta col contante, che invece tutti, anche nelle banche centrali, diamo ancora per scontato e insostituibile. Ma perché questa tesi? Innanzitutto, dice l'autore, perché il contante favorisce l'economia sommersa, il nero, l'illecito e anche l'immigrazione clandestina. E in questo libro Rogoff ci dà una piccola storia del denaro e soprattutto ci spiega lo sviluppo della massa circolante, la domanda alla quale si vuole rispondere con il denaro contante, i vantaggi per gli stati che si hanno appunto da una circolazione sempre crescente di denaro contante e le proposte per superare appunto l'epoca del contante. E adesso ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Apparteniamo a una comunità di viaggiatori in cerca di luoghi sconosciuti, tutti da scoprire. Un'Italia fatta di borghi antichi, di bellezze naturali e meraviglie architettoniche. Viaggia con noi per ascoltarne la storia e respirarne l'atmosfera. Radio 24 e Touring Club Italiano ti portano in alcuni tra i luoghi più belli e suggestivi del nostro paese. Ogni settimana in onda nel Sabato del Villaggio. Il sabato dalle 15 su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Cambiamo argomento e passiamo alla musica, e inizio con un libro che in realtà ha l'argomento musicale solo in forma figurata. È un libro di Canek Sanchez Guevara, il disco rotto 33 rivoluzioni, pubblicato da Edizioni O, 116 pagine, 10 euro, tradotto da Raul Scenardi. L'autore del libro è il nipote, il Che Guevara era suo nonno, del grande rivoluzionario. E questo, il giovane, non ha condiviso la passione per la rivoluzione del nonno, anzi nel 1996 ha abbandonato Cuba per il Messico, dove poi morì un paio d'anni fa a 39 anni. Questo è un libro postumo, proprio sulle delusioni della rivoluzione cubana, vissute sulla propria pelle da un cubano nero che scopre nella realtà una sorta di disco rotto, per l'appunto, che ripete sempre gli stessi slogan, senza alcuna possibilità di cambiamento se non quella promessa dal rum, che diventa, scrive l'autore, la speranza del popolo. Quando la contestazione dell'autore verso il regime si farà sempre più visibile, naturalmente il clima si farà altrettanto difficile, a partire proprio da quell'assemblea nella quale Sanchez Guevara dichiara di rompere col regime, con queste parole delle righe che adesso vi propongo. A presiedere l'assemblea è un tipo magro e piuttosto giovane, baffi ben curati, pullover del 26, jeans nazionali, che spiega con voce da agitatore perché bisogna stare allerta e prevenire, enfatizza il verbo, qualunque avvenimento che fuoriesca dalle norme stabilite. Prevenire? Domanda qualcuno coraggiosamente. E con la forza, se necessario, strilla l'oratore sull'orlo di una crisi isterica o dell'estasi. Sì, compagni, se necessario, con la forza. In quel momento, senza sapere perché, lui alza una mano, si drizza in piedi e scandisce lentamente. Io non reprimerò nessuno. E cala un silenzio catastrofico. Decine di volti si girano verso di lui. La scena si svolge al rallentatore, con poca profondità di campo, a bocca aperta. «Cosa dici?» domanda l'oratore fra lo stupefatto e l'indignato, poco abituato a sentirsi dire no. «Dico che io non reprimerò nessuno», risponde lui con fermezza. E senza aggiungere altro, tira fuori di tasca la tessera del partito, si avvicina al tavolo e ce la lascia cadere, senza eroismo, come se fosse la cosa più naturale e ovvia, l'unica possibile nelle circostanze attuali. «Non reprimerò nessuno». Poi gira i tacchi e se ne va. Qui la musica, vi dicevo, era figurata. Un'introduzione invece alla musica jazz, quella di un esperto del tema, Luca Cerchiari dell'Università Yulm, che ha scritto Intorno al jazz, dall'etnologia alla popular music, pubblicata da Bompiani, 680 pagine, 16 euro. Perché Intorno al jazz? Perché quello originale, ci scrive l'autore, di jazz non c'è più. C'è semmai una congerie di prospettive, di interpretazioni, di analisi, di approfondimenti, una congerie che allarga di molto l'ambito anche geografico del jazz, che diventa così, scrive Cerchiari, crocevia e sintesi codicologica di oralità e scrittura, di musiche europee e africane, di culture transatlantiche e novità sociali e tecnologiche. Jazz, insomma, come esito finale della storia della musica occidentale. Si parte naturalmente dalla commistione rappresentata dalla cultura afroamericana, per arrivare poi agli sviluppi attuali che spingono ad una nuova definizione di jazz, della quale c'è già una premessa in alcuni grandi autori del passato. E questo è Duke Ellington, l'avete riconosciuto, che secondo l'autore rappresenta proprio la cerniera tra la musica classica del jazz, la versione classica del jazz, e la versione della musica europea. Ellington trasse infatti molta ispirazione da autori europei come Mio o Grieg, e nel libro è spiegato come ci fu una reciproca influenza anche con autori come Stravinsky, il compositore russo, ricorda Cerchiari, ascoltò Ellington al Cotton Club di New York. Nello stile di Stravinsky si rilevano alcuni aspetti di Duke Ellington che derivano dal ragtime e dal jazz. E il jazz di Duke Ellington fa da colonna sonora al romanzo di Leonardo Gori, Musica Nera, pubblicato da Teatri, 140 pagine, 14 euro. Questo è un giallo con la creatura di Gori, cioè Colonnello Arcieri, che opera negli anni 60 del Novecento. Qui lo troviamo in Versilia, dove la musica si rivelerà una trappola che darà modo al colonnello di indagare su vecchi misteri dell'età fascista. Torniamo alla musica protagonista con il rock. Vi segnalo Rock Notes, curato da Paul Zollo, che è un cantautore critico americano, 348 pagine, 16 euro, pubblicato da Minimum Fax. Questa è una serie di conversazioni con alcuni protagonisti della musica rock che raccontano in retroscena delle proprie canzoni con sorprendenti intuizioni, come questa di Leonard Cohen, che adesso ascoltate in qualche battuta della canzone Democracy, relativamente alla quale risponde alla domanda dell'intervistatore. Sì. Molti di noi, appartenenti al ceto medio, hanno una specie di vecchia idea ottocentesca di cosa sia la democrazia, che più o meno corrisponde, volendo ipersemplificare, all'idea che le masse impareranno ad amare Shakespeare e Beethoven. È questa più o meno la nostra idea di cosa sia la democrazia. Ma non è così. Arriverà in qualche modo inaspettato da ciò che noi consideriamo spazzatura. La gente che consideriamo spazzatura, le idee che consideriamo spazzatura, la televisione che consideriamo spazzatura. Oppure quest'altra intuizione di Frank Zappa che risponde alla domanda se la gente abbia veramente bisogno di musica seria e intensa, come gli chiede l'intervistatore. Il problema che sta sotto a questo concetto è: ma queste persone saprebbero riconoscerla se la sentono? Gli piacerebbe? E la preferirebbero ad altra roba? Vedi, il pubblico viene educato. La gente viene educata da quello che gli sta intorno. E quello che sente alla radio non ha niente a che fare con la vita. È tutto morto e ibernato. Sono come manufatti decrepiti che vengono ripetuti all'infinito. La ripetizione aiuta a vendere dischi, ma la ripetizione riduce anche la parte creativa a livello di tappezzeria. Un artista rappresentativo del jazz di oggi è Paolo Fresu, trombettista acclamato, che ha scritto La musica siamo noi, e pubblicato dal Saggiatore, 80 pagine, 15 euro, che racconta la sua carriera, il sogno di trasformare il viaggio o i molti viaggi compiuti nell'esperienza di attraversare, scrive, il vasto mare di un lago, di bucare la superficie, scendere in profondità, produrre cerchi concentrici che si allargano sempre di più prima di tornare a riva, a casa, al paese. E proprio la musica ha spinto Fresu a viaggiare. La musica, che per l'artista è la chiave per il mondo, quello dentro di noi e quello che ci sta intorno, apre la porta, ci indica la via, l'esplorazione sta a noi. E il libro si conclude parlando dell'esperienza alla quale ha dato vita il musicista, cioè il Festival Jazz di Berchidda in Sardegna, che quest'anno inizierà l'8 di agosto. E a questo punto... Il confettino. Un musicista particolare troviamo in David Litchfield, L'orso e il piano, pubblicato da Zoolibri, 16 euro, dove troviamo un orso appunto che dall'incontro occasionale con un pianoforte troverà il modo di diventare una star acclamata, salvo poi, come Fresu, voler tornare a tutti i costi a casa a suonare, naturalmente. E prima di salutarci ricordiamo uno dei più famosi scrittori del Novecento, Vladimir Nabokov, l'autore di Lolita, che morì esattamente 40 anni fa in Svizzera. In Italia lo sta ripubblicando ad Elfi. L'ultimo titolo è Una risata nel buio, tradotto da Franca Pace, che è un titolo del 1932, pubblicato poi nel 1938 e riscritto in questa occasione negli Stati Uniti. Questa è una storia apparentemente conclusa nelle prime 5 righe del romanzo, ma che non cessa di riservarci sorprese in una linea letteraria tipica dello scrittore. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, e Filippo Reggi regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona serata.